gli operai della Fiat di Melfi sono arrivati a Roma a manifestare per richiedere un'apertura di una trattativa vera sulle loro richieste di migliore qualità del lavoro. Infatti uno degli slogan più gridati è aumento. Dietro di loro ci sono le Camere del Lavoro e la FIOM territoriale di tantissime città d'Italia, saranno circa 10.000 persone. In questo momento gli slogan sono molto atipici rispetto alle lotte tradizionali degli operai. Si richiede un aumento, cosa che non si richiedeva da tanti anni nelle piazze italiane, rispetto alle vertenze storiche, dove si puntava a difendere il posto di lavoro. La solidarietà di tutte le altre sezioni della CGIL è molto forte, ci sono anche sezioni dei sindacati di base, di alcuni partiti della sinistra, soprattutto di Fondazione. E adesso stiamo arrivando a passare sotto la Confindustria, poi torneremo sotto Piazza Esedra. Mi avvicino a una compagna lucana. Allora, siamo tutti qua e la manifestazione è andata benissimo, c'è un sacco di adesione e siamo tutti qua contenti di esserci e lotteremo fino alla fine.